posso, adesso posso e lo voglio. Tutto ad ogni costo e non mollo. Ho annusato libertà, doppia personalità. Ciò che è passato sempre impresso resterà. Ma va, chissà dove sarai, che farai, ci sarà. Tanto da me non tornerai, mai, dire mai, ormai. Chi ti sente, chi ti vede, io di me stesso sei l'erede. Cacciatore o preda, sono la stessa cosa. Sul collo il tuo respiro, mentre guido tu riposa. Ti porto via da qua, lo sai noi, siamo senza età. Attimo per attimo rivivi ogni singolo battito. Lo vuoi, lo avrai, sai già che scaldino. Devi cercarmi, sai dove trovarmi. Prendimi, dai, vieni ad abbracciarmi. Io non mi guardo indietro, ma ciò che è stato non sarà cancellato. Cammino a più di un metro, e sicuro non l'hai dimenticato. Io non mi guardo indietro, ma ciò che è stato non sarà cancellato. Cammino a più di un metro, e sicuro non l'hai dimenticato. Si dice facile colmare sti silenzi, occhi spenti, menti, le ascolti e non le senti. Le mie urla, le mie frasi, i miei messaggi. Pensi non ci sia ma sono sempre nei paraggi. Non sottovalutare, segnali e sensazioni. Parole e fatti, vado, meglio le azioni. Ricordi, le smorfie, le labbra, la carne. Corpi sudati, mille più domande. Non ce n'è, chi c'è? La nostra droga, allunghiamo le mani. Che roba, e so che sai di ciò che sto parlando. Se sto tornando tu ti stai chiedendo quando. Ti portano giù e nessuno risolve più questo strano tabù. Io ti riporto su e tanto che ti chiedi perché ora non sei più tu. Io non mi guardo indietro, ma ciò che è stato non sarà cancellato. Cammino a più di un metro e sicuro non l'hai dimenticato. Io non mi guardo indietro, ma ciò che è stato non sarà cancellato. Cammino a più di un metro e sicuro non l'hai dimenticato. Io non mi guardo indietro e nessuno risolve più questo strano tabù. Cammino a più di un metro e tanto che ti chiedi perché ora non sei più tu. Ti portano giù, ma ciò che è stato non sarà cancellato. Io ti riporto su e sicuro non l'hai dimenticato. Ti portano giù e nessuno risolve più questo strano tabù. Io ti riporto su e tanto che ti chiedi perché ora non sei più tu. Io non mi guardo indietro, cammino a più di un metro. La terra ti portano giù e nessuno risolve più questo strano tabù. Io ti riporto su e tanto che ti chiedi perché ora non sei più tu.